che sai che cosa c'è di vero immerso dentro alla realtà, che senza avere occhi piangi lacrime di nebbia e pioggia, con quel senso immenso di pietà steso su di noi. Tu che sai guidare un lampo, un tuo non bimbo quando nascerà, che senza mani stringi il mare, spingi il vento contro il tempo, tu che puoi decidere per noi quello che sarai e quello che sarà. E vanno i marinai, la luna prende posto dentro un fragile. Ti voglio bene, ma dimmi che sarà di noi. Cosa ci sarà, chissà. Quando il buio accenderà i suoi mostri sopra noi. Tra le ombre dei miei guai saprai, saprai portarmi dove vecchio non sei mai, tra le cose semplici e le notti tiepide, dove poi io dormirei. Io lo so che la mia vita non è certo stata limpida, che non sono stata sempre giusta. Chiudimi la bocca e gli occhi per le volte che dicevo no, per quei troppi sì. Tu che sai capire il bene e il male, un fiore quando crescerà, che senza ali copri l'uomo usando il cielo con le stelle. Tu che puoi decidere per noi quello che sarà e quello che sarà. E vanno i marinai, la luna prende posto dentro un fragile. Ti voglio bene, ma dimmi che sarà di noi. Cosa ci sarà, chissà. Quando il buio accenderà i suoi mostri sopra noi per l'eternità. Saprai, saprai guidarmi tra le ombre dei miei guai. Saprai, saprai portarmi. Cose semplici e le notti tiepide, dove poi io dormirei.